Licea 1915-1918, lo ringrazio di essere venuto qui a Bolzano e soprattutto di aver scritto questo bellissimo libro che questa sera viene presentato. Ci aiuta in questo percorso Paolo Mazzucato, programmista regista della Serie Rai di Bolzano, ed è con noi Lorenzo Merlini che darà voce a queste pagine molto emozionanti, vero? Toccanti. Non sono storie, sono spezzoni di vita che vissuta da persone anche comuni, semplici, che però hanno rappresentato la storia, rappresentano quello che siamo anche noi oggi. Chiaramente questi sono anni dove spesso le biblioteche organizzeranno, come anche altre istituzioni, degli eventi o delle iniziative che ricordino e che spieghino, laddove sia possibile ancora, parti e aspetti della Prima Guerra Mondiale, che in questo territorio in particolare ha significato poi tutta un'evoluzione a cui partecipiamo ancora oggi noi che vi residiamo. Bene, non mi dilungo molto, so solo che posso esprimervi solo la mia contentezza nel vedere che la biografia, l'autobiografia in particolare, la memorialistica sono temi sempre attuali, e questo è un modo anche per raccontare un conflitto che forse è un po' lontano, no? Rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, dove ci sono più testimonianze, i protagonisti spesso sono ancora in vita, si possono raggiungere, si possono interrogare anche in maniera spontanea, mentre nelle famiglie ormai tutto per motivi anagrafici questa guerra non è più presente, ecco, come ricordi, però il diario è straordinariamente evocativo, come questa guerra è particolarmente interessante anche perché non solo ci sono queste lente dei diari memoriali, ma ci sono canzoni, che è una guerra cantata che mi ha anche impressionato e toccato anche da bambina come tema, ed è una guerra appunto riprodotta visivamente con delle foto, con dei filmati, ma soprattutto con questi diari e queste memorie. Grazie ancora anche a Nicola, soprattutto per questo straordinario lavoro che ha fatto e per essere qui con noi. E grazie Paolo. E grazie. Allora, buonasera, grazie Valeria. Prima di dare la parola e la voce a Lorenzo Merlini, io volevo partire da un'immagine con Nicola Maranesi, che è un giornalista che fa parte pure della direzione artistica del premio Pieve, adesso ne parleremo, insomma, Saverio Tutino, che sostanzialmente è il terreno dal quale questo libro è nato, perché Nicola Maranesi ha avuto il privilegio e anche il piacere, ce lo racconterà, di rovistare tra centinaia e centinaia di libri che sono in realtà dei diari, ovvero dei racconti personali di vita privata che molte persone nel corso della loro esistenza hanno compilato. In questo caso ha avuto accesso all'archivio dei diari di guerra della Prima Guerra Mondiale, custoditi dentro questo grande archivio che è appunto adesso fondazione, l'archivio diaristico nazionale, che si trova a Città della Pieve. E per raccontare questo archivio, dopodiché iniziamo proprio a sentire cosa questo libro in qualche modo vuole affrontare, partirei dall'immagine di un lenzuolo, che è il lenzuolo simbolo di questo archivio, un vero e proprio lenzuolo, dove una persona, una certa Clelia, ha scritto la sua vita fisicamente, un lenzuolo di un letto matrimoniale. Vorrei che ce lo raccontasse Nicola Maranesi. Grazie Paolo, intanto grazie alla direttrice Valeria Trevisan per l'invito e alla biblioteca. Grazie ai presenti. Sì, l'archivio di Pieve Santo Stefano è un posto magico, spero che abbiate la possibilità di passarci. Un posto che conserva oggi più di 7.000 testimonianze autobiografiche, tra diari, memorie ed epistolari. Il più speciale, l'emblema di questo archivio è quello che vi ha descritto poco fa Paolo, è un lenzuolo molto grande, riempie quasi una parete intera dell'archivio, che una contadina del Mantovano, esattamente di Poggio Rusco, Clelia Marchi, alla fine degli anni Ottanta portò Pieve Santo Stefano come sua personale testimonianza autobiografica. Questa signora, che aveva vissuto una vita intera con suo marito Matteo, in vecchiaia purtroppo si aveva perso il marito, che era venuto meno in un incidente di bicicletta, aveva una grandissima passione per la scrittura, teneva da tantissimi diari, lo aveva sempre fatto. Dopo aver perso il marito, una sera aveva avvertito l'esigenza di scrivere dei pensieri che invocassero in qualche modo la presenza, e si era abituata senza carta dentro casa, e non sapendo su quale altro supporto, diciamo, sfogare questa sua esigenza di scrittura, aveva preso questo lenzuolo, facendo poi, raccontando in seguito con una battuta, che non avrebbe più potuto utilizzarlo con il marito, dunque aveva deciso di utilizzarlo in un altro modo, scrivendoci sopra la storia della sua vita e la storia della sua vita con il suo antero. Sono moltissime righe di saggezza popolare, cioè dentro tutta quanta la civiltà e la cultura italiana del Novecento, ed è una testimonianza che ha un grande valore per l'archivio, perché appunto incarna il significato che può avere per una persona scrivere di sé. E questo è quello che ha fatto Clelia, appunto, mantovana, vicino a Mantova, di Poggiorusco, e questo è un po', fatte le debite proporzioni, quello che ha fatto uno dei soldati, di cui adesso Lorenzo Melini ci leggerà una riflessione, che fa un po' da battesimo rispetto a questo libro, che si intitola Avanti Sempre, Emozioni e ricordi della guerra di trincea, 15-18, capiremo perché emozioni, il sottotitolo principale di questo libro, e sentiamo cosa dice questa persona ricordando forse quello che è stato il suo primo impatto con uno dei momenti difficili, insomma, di quando si era in trincea. Gian Battista, gli dissi, tu che sei un veterano, dimmi, che si prova quando per la prima volta si va al fronte? Una gran figa. E dopo dico, quando si è fatta l'abitudine, sempre una gran figa. È una cosa che non ti lascia mai, che te la sente addosso in ogni momento, che comincia da dentro alla testa e che finisce nelle gambe. Una gran pipa. E questo è quello che provava il soldato del caso. Ma in questo libro ci sono tanti nomi, e ve ne cito alcuni perché sono nomi antichi, a parte Giuseppe, ma c'è Efisio, Annibale, Gino, Ernesto, c'è addirittura un Rosado, che chissà se aveva qualche ascendenza spagnola, Emilio, Umberto, Priamo nelle guerre di Troia, Eduilio, ma ce ne sono veramente tanti. La caratteristica di questo testo è quello di inseguire le storie di queste persone, non seguendo in particolare, ma accompagnandoli in quelle che Nicola Maranese ha definito un percorso emotivo. In questo libro non si racconta la guerra, non si raccontano le battaglie che hanno segnato la storia, ma si raccontano le singole piccole battaglie di Giuseppe, Fisio e Annibale, in quello che Nicola ha ricostruito come una sorta di percorso che accomuna tutte le diverse storie. L'ipotesi da cui parte questo libro è che tutte queste persone, sono circa un centinaio di testimonianze, sono accomunate da una storia emotiva. Tutti sono passati attraverso alcune chiuse emotive, la paura, il terrore, la speranza, benché le loro singole storie siano molto diverse tra di loro. Raccontaci questa chiave di lettura. Sì, sì, è esattamente così come dice Paolo. Nel momento in cui ho avuto la possibilità di leggere questa grande quantità di testimonianze, alla fine il lavoro si poggia su 100 testimonianze, ma quelle che sono state prese in considerazione sono di più, perché l'archivio ne custodisce in questo momento 400 di soldati italiani che hanno combattuto la guerra mondiale. Nel leggere questi racconti di questi ragazzi, che avevano più o meno la mia età quando ho iniziato a leggerli, perché questo percorso è iniziato all'incirca 10 anni fa, mi sono reso conto che c'erano molti punti di contatto fra le varie esperienze, e che per quanto naturalmente si sviluppassero ciascuna attraverso tappe geografiche e temporali diverse, perché l'arrivo al fronte, la partenza e tutte le varie vicissitudini facevano differire una testimonianza dall'altra, però c'erano molti punti di contatto, soprattutto nell'evoluzione emotiva. Quello che è stato detto è un ottimo esempio. Ad esempio, quando i soldati arrivavano al fronte c'era sempre questo contatto fra il veterano e il neo arrivato, ed era una prassi comune che i neo arrivati chiedessero delle informazioni a chi trovavano lì, su come si viveva, su che cosa si trovasse in quelle condizioni, e le risposte che gli arrivavano erano solitamente di questo tenore. E questo naturalmente tendeva a incidere e a uniformare, a incidere sull'umore di chi ascoltava queste risposte, e a uniformare gli umori, le reazioni, gli stati d'animo di chi da quel momento in poi si trovava a vivere la propria personale avventura in trincea. Ecco, come in questa ci sono tante altre esperienze che tendono a uniformare e a livellare, e quindi mi è sembrato possibile cercare un percorso che è necessariamente mediano. Io, avendo preso in considerazione alcune centinaia di testimonianze, non ho la pretesa di dire che sia un percorso scientificamente universalmente valido, però tra quelle che ho letto, e sono un campione significativo, la traiettoria di stati d'animo, la progressione di stati d'animo che io ho descritto, è sicuramente quella mediana e comune a questi 100 ragazzi. È una cosa che è importante dire di questo libro, che naturalmente va a pescare nelle lettere passate, no? Di persone che, peraltro, dice giustamente Nicola Maranesi, le hanno scritte in alcuni casi anche 50-60 anni dopo. Non dobbiamo immaginare il diario scritto nel fango della trincea, solo quello, possiamo immaginare anche altri tipi di diari. Questo libro è un'importanza perché, lui citava la sua età, dice in sostanza che oggi i nuovi ragazzi del 99, diciamo così, sono quelli che nel centenario della prima guerra mondiale sono esattamente coetanei di quei ragazzi che partivano per il fronte. E vorrei partire quasi dalla fine di questa narrazione, perché fa un paragone molto azzardato. Adesso volevo proprio sfidare su questo, no? Lui dice: io ho girato l'Europa, diciamo, la guerra ovviamente nessuno discute che sia un male, però ha consentito a moltissimi giovani che venivano da paesi piccoli così di prendere mezzi di locomozione, di andare in luoghi lontanissimi, di girare l'Europa, attenti, così come oggi i ragazzi che studiano all'università vanno a fare l'Erasmus. Allora dice Nicola Maranesi: è vero, bisogna fare tutte le debite proporzioni, però l'esperienza, mi piacerebbe che chi prende questo libro e legge il diario di un soldato in guerra avesse in qualche modo un ponte di collegamento con chi 100 anni prima andava a combattere mentre lui va a studiare. Spiegaci questo. Sì, è una provocazione come tale va percepita. Io credo che la storia in assoluto, e soprattutto la storia studiata attraverso le testimonianze autobiografiche, abbia un grande valore se rapportata il più possibile al presente. Lo dico io, lo diceva prima lei, è molto autorevole prima di me. Però credo che sia sempre importante cercare di trovare un nesso fra quello che è accaduto nel nostro passato, più o meno recente, e oggi. Credo che gli stati d'animo e le emozioni rappresentino dei ponti con il presente molto importanti. Sicuramente gli esseri umani che partivano per il fronte 100 anni fa, in questi giorni, o un anno fa, 101 anni fa, erano esseri umani diversi da noi sotto moltissimi punti di vista socio, antropologici, eccetera, eccetera. Però sono sicuro che nel profondo del cuore di noi e di loro ci sono molte analogie nei sentimenti che proviamo. Allora, ho cercato di riflettere a lungo sulle esperienze collettive della mia generazione, della generazione degli anni 80-90, della fine del Novecento, alla ricerca di un'esperienza collettiva che potesse essere in qualche modo paragonabile a quella drammatica e imparagonabile della prima guerra mondiale. Ho riflettuto ad esempio sui problemi dell'occupazione, però non mi sembrava un paragone pertinente, e comunque ci sto lavorando ancora. In qualche modo ho pensato che l'esperienza dell'Erasmus, un'esperienza gioiosa chiaramente, un'esperienza meravigliosamente bella, potesse però in qualche modo rappresentare un grimaldello per spingere i giovani di oggi a riflettere su quello che avevano provato i loro coetanei 100 anni fa. Perché per tanti come me è stata un po' la prima occasione di mettersi in gioco su cose semplici, banali, come trovare un appartamento in affitto oppure cavarsela da soli, insomma. Un'occasione per mettersi in discussione. Le persone che sono partite per la guerra 100 anni fa sono state costrette a mettersi in discussione e hanno dovuto trovare dentro di loro delle forze straordinarie per sopravvivere alla prova alla quale erano sottoposti. È proprio in questa chiave qua che io ho voluto nell'epilogo del libro dare un consiglio ai giovani di oggi. Ho voluto dire alle generazioni di oggi, fra le quali includevo anche me, che ormai tanto giovane non sono più, di valutare bene quali sono i problemi che ci poniamo, il peso che diamo ai problemi e magari l'eccessivo peso che talvolta gli diamo, proprio mettendoci in relazione a loro che invece abbiamo dovuto affrontare delle prove estreme. E facendo questo piccolo sforzo, ecco, sono sicuro che, come è accaduto a me, giovani d'oggi potrebbero imparare un po' a parametrare in una maniera più corretta i loro problemi di vita quotidiana. Quindi misurare, dice anche in alcuni punti, misurare se stessi rispetto alle emozioni che queste persone hanno vissuto. La prima prova, Nicola la chiama, Nicola Magnesi la chiama il salto nel vuoto. E peraltro è curioso perché oggi è il 18, ma nella notte tra il 23 e il 24 di maggio del 1915, lui dice, c'è un istante, un minuto preciso in cui la guerra è iniziata, in cui questo salto nel vuoto precede di un'infinitesima porzione di tempo l'affondare, dice lui, degli scarponi nel fango. Bene, questa sensazione, questo salto nel vuoto, la ascoltiamo adesso dalla voce di Lorenzo Marini. Raggiunse in quel frattempo un soldato del secondo reggimento granatieri e, fermatosi, mi domandò dove eravamo diretti. Risposi che andavamo a pigliar parte al combattimento e non sapevo da quale parte e perché nuovo in quell'affare. E quel soldato allora mi disse: senti, se andate verso Monfalcone non è tanto brutto l'affare, ma se andate in quel monte, caro mio, è doloroso. Io guardai il punto indicato e vedendo quelle rocce nude ebbi un senso di sconforto. Il granatiere, quasi a divertirsi del mio ambo stato di emozione, continuò i discorsi di guerra e, parlandomi del grosso calibro dei cannoni austriaci, disse: vieni qua che ti faccio vedere una buca prodotta da un proiettile austriaco da 305. E lo seguì e potete osservare un buco profondo 2 metri circa e per una circonferenza di 20 metri circa. A quella vista mi accreppe lo sconforto, ma poi, essendo terminato il passaggio della mia compagnia, mi accorsi e proseguì: per lungo designato, cioè nel trigione detto Ronchi. Questo è il primo contatto, no? Che non conosce nulla della guerra e che si confronta con una voragine. C'è anche un numero che mi ha segnato da qualche parte, che parla di circa 4 miliardi di lettere che sono state scritte tra il fronte interno e il fronte esterno. Cioè c'era un filo strettissimo e potentissimamente tessuto tra chi era il suo fronte e chi era a casa. E questi 4 miliardi di lettere, di corrispondenze, ci dicono che una delle occupazioni fondamentali che tenevano in vita dentro quei buchi le persone era scrivere, in qualche modo andarsene dal fronte. Sì, questo è un dato incredibile che spinge a riflessioni anche sulla comunicazione di oggi rispetto a quella di allora. Se non ricordo male, ho fatto il calcolo al minuto di queste 4 miliardi e veniva fuori circa 2000 lettere al minuto. Ogni minuto dal fronte o al fronte arrivava? Esatto, cartoline e lettere scambiate tra il fronte interno dal 15 al 18, che è un ritmo quasi da social network. Sappiamo che non è così perché i social network sviluppano ben altri volumi, però è comunque impressionante. E fra l'altro con un utilizzo che seguiva dei criteri ben precisi dei vari strumenti a disposizione, perché le cartoline venivano utilizzate esattamente come oggi si utilizzerebbe un SMS. C'è la battaglia del Col di Lana, sono sopravvissuto, i miei genitori sanno che io sono sul Col di Lana, torno giù nelle trincee di resistenza e mando una cartolina di 3 righe, sto bene. Dopo 2 giorni, con un po' più di calma, ho fatto quello che dovevo fare, una lettera più approfondita dove, fatta salva la censura, cerco di dare più informazioni alla mia famiglia, un'email. Quindi c'è assolutamente un utilizzo ben studiato di questi strumenti qui. E sì, strumenti che poi, questo lo sappiamo bene, ne hanno parlato in maniera approfondita moltissimi storici, facevano la differenza fra la vita e la morte per i soldati, perché ricevere e poter inviare informazioni a casa era questione veramente di vita o di morte. Una parola in più su quel momento, che è veramente un momento straordinario nelle testimonianze, in tutte le testimonianze, nella gran parte delle testimonianze si avverte questo momento di trapasso fra un prima e dopo nell'esperienza di vita di queste persone, che nel passaggio da civili a militari, perché naturalmente in vario modo arrivano al fronte per lo più impreparati, ma quello che devono affrontare, e vengono investiti da una serie di sollecitazioni che sconvolgono tutta la percezione sensoriale che hanno avuto fino a quel momento della loro vita, vita di persone semplici, per lo più semplici, per lo più cresciute in un'Italia preindustriale, che non erano abituati al tipo di sollecitazioni che invece la zona del fronte somministrava loro. E quindi attraverso il ribaltamento totale che ho fatto di vista a tutti e cinque i sensi, ci si rende conto, e lo si percepisce dalle loro scritture, queste persone perdevano i riferimenti con la vita che avevano vissuto fino a quel momento lì, e capivano a un certo punto che stava per iniziare un qualcosa di diverso, era veramente una sorta di passaggio iniziatico interiore che poi ha tutta una serie di sviluppi che sono contenuti nel libro. Un po' per alleggerire questa cosa, c'è un passo che Nicola cita, questo è Fisio, che è un nome che rimane impresso e quindi non posso inventare il libro, Azzodi, esattamente, che conosce lo sci, lui sardo, e scrive a casa: oggi ho fatto una schiata e ho fatto anche un patatrac, dice. E anche dal punto di vista linguistico è interessante scoprire come queste persone scoprono cose nuove. Sì, assolutamente. Devo dire che purtroppo la storia di Fisio poi è un epilogo triste, perché purtroppo morirà sul massiccio del Vesuvio. Però ecco, rientra la sua esperienza in quel ragionamento su che cosa ha rappresentato la Prima Guerra Mondiale per questi ragazzi, perché naturalmente non per i Fisio, che non è potuto tornare a casa, ma per chi invece ha avuto la fortuna di tornarci, per esempio andare da Cagliari, dalla Sardegna, alle Vette Dolomitiche, e imparare a sciare con gli amici, fare a parlare di neve, racconta tante. Era comunque un'esperienza straordinaria. E Fisio, fin quando purtroppo non muore, scrive delle lettere a casa che, nelle quali si scusa delle volte, perché dice: voi pensate che io sono in vacanza, che sto a divertirmi. Ora, naturalmente c'era tutto il desiderio da parte sua, che era un bravissimo figlio, di cercare di tranquillizzare la famiglia. Probabilmente si autocensurava nel raccontare determinate cose. Però non c'è da dubitare che quelle esperienze lì lui le abbia vissute veramente e che lo abbiano senza dubbio entusiasmato. Però la vita in trincea sul fronte era molto dura, e in particolare la trincea, quella delle retrovie. C'è un passo nel libro in cui si racconta che per un determinato periodo una trincea in una retrovia era dentro un camposanto, ed uno di questi soldati era dentro una tomba con tanto di lapide che leggeva, e considera il fatto anche questo fa la guerra, no? Era una vita durissima, e Lorenzo Bernini adesso ci racconta in due passi come era, come veniva vissuta da due dei testimoni scelti da Nicola, tra i tanti naturalmente, Nicola Maranesi, come era la condizione nella trincea, come nella trincea si poteva anche vivere. La trincea veramente non c'è, esiste un muretto a secco con sovrapposti qua e là, dei pezzi di lamiera, degli antiporti, imposte, gelosie, e coronato di sacchetti di terra. Cerchiamo un posto dove coricarci, riposare, e braccolando mi pare di sentire in un tratto di terreno un po' di soffice. Depongo lo zaino, posatomi la testa, mi stendo e tosto mi addormento. Tornando all'aperto, il risveglio è immediato e totale. Albeggia il diamine, non mi sbaglio. Ho quattro piedi. Balzo a sedere e due piedi mi seguono, e due no. E mi alzo, osservo e mi convinco di aver dormito su un morto recentemente manco coperto di terra. Alle prime luci dell'alba anche Carlo Foglia si rende conto dello scenario, ed è ancora peggiore di come lo ha immaginato. Fatto giorno, abbiamo cominciato a vedere tutti gli alberi stroncati dalle granate, tutto intorno qua e là delle buche che spaventavano, una puzza di sporcizia, di merda, sì, parlando un poco di rispetto, uno straccio di qua, una gavetta di là, dei fucili rotti, abbandonati, delle marmite di rancio gettate via, una cosa che faceva ribrezzo, e le granate ogni tanto fischiavano, che ci facevano fare una mossa, cioè appena si sentiva il fischio che veniva verso di noi, giù a terra, dietro qualche roccia. eravamo tutti rimbambiti, che era una cosa strana, e di più ogni tanto passava qualche ferito che andava all'ospedale, si correva a vederli e chiamare dove era ferito, e qualcuno si faceva stomaco a vedere quei feriti. Ah, per grazia di Dio, io mi ero fatto un coraggio tale che nemmeno da me stesso ero capace di convincermi. Il totalmente altro, no? Si scopre il colpo in luoghi anche apparentemente tranquilli, in cui non succede nulla, in cui sostanzialmente bisogna attendere, aspettare, vedere se qualcosa si muove. All'improvviso una granata, un shrapnel, come dicono in alcuni casi, cambia completamente la situazione. Sì. La prima volta che mi recai a Piave Santo Stefano, il professore che mi mandò a studiare mi disse: la presente la trincea come è disegnata sulle mappe, con queste linee colorate, oppure quella che si vede in televisione. Ecco, non era niente di tutto questo. La trincea era quello che più o meno descrivono questi testimoni qua, caos totale. Noi abbiamo fatto molti sforzi, perché è necessario farlo, per cercare di razionalizzarla e astrarla, immaginandola come se fosse un filo continuo. In realtà credo che l'unica parola che possa descrivere in maniera esaustiva la trincea è veramente la parola caos. Era qualcosa di totalmente, assolutamente irrazionale, un qualcosa sul quale incidevano appunto fattori come questi, come i proiettili, i calibri, i tiri di artiglieria, che erano una minaccia invasiva della vita del Fante, della quotidianità del Fante, e che era una minaccia che inizialmente veniva contrastava, perché inizialmente i soldati cercavano di contrastare come farebbe più o meno qualunque persona, e magari una persona addestrata a farlo, cercando di prendere di assumere degli atteggiamenti che in qualche modo preservassero la propria incolumità. E dunque, seguendo questo criterio, comincia nella prima fase solitamente di vita al fronte tutto un periodo di adattamento dei soldati alla vita di trincea e al rapporto con questo tipo di minaccia, e quindi si comincia a fare degli studi su come cercare di non essere colpiti da queste granate. Allora si comincia a studiare il sibilo che provocavano, dove scoppiavano e come, ce n'erano alcune che scoppiavano a terra, e quindi per evitare di essere colpiti bisognava andarsi a nascondere in un certo modo, altre scoppiavano in aria e lasciavano cadere questa pioggia di proiettili, quindi bisognava andarsi a nascondere. Ecco, c'è questo lungo processo di adattamento che i soldati cercano di avviare, di mettere in atto, e che è un processo assolutamente fallimentare. Prima o poi ciascuno si rende conto che per quanta esperienza, per quanto ci si sforzi di prendere delle contromisure per avere salva la vita, ogni sforzo è inutile, perché la densità di pericolo è talmente elevata che la morte arriva in maniera casuale. Quindi quella teoria del darwinismo di trincea, cioè che solo i migliori sopravvivono, viene minata, perché non è vero che i migliori, i più bravi soldati in trincea sopravvivono per forza, è il caso in molte circostanze a definire, a decretare: tu vivrai, tu morirai. Alla fine si convincono anche loro che sia il caso, perché quando si rendono conto che assumendo degli atteggiamenti, e gli atteggiamenti esattamente contrari, si può comunque sopravvivere o comunque morire, si rende conto che le regole non valgono più, e allora subentra anche la spavalderia. Descrivi un episodio in cui un soldato, ormai pratico insomma della vita in trincea, si espone in qualche modo allo sparo dei suoi nemici, dicendo: deve ancora essere forgiata la pallottola che mi colpirà, perché lui è uno di esperienza, e la pallottola arriva esattamente come ci si immagina nei film, ma questo è un diario reale. Esattamente. Ecco, sono poi, questa è una delle tecniche, diciamo, di sopravvivenza psicologica che i soldati mettono in campo di fronte a questo imponderabile, e qualcuno, rendendosi conto di non poter dominare gli avvenimenti, decide di sfidarli e assume appunto questi atteggiamenti talvolta spavaldi e dice: se io non posso sopravvivere pur intanandomi all'interno di una trincea e vivendo per giorni, settimane, mesi e anni come un verme dentro al fango, almeno a questo punto mi tiro su in piedi, mi tiro su in piedi, comincio a camminare e acquisto la dignità di un essere umano. A qualcuno va bene ed è un momento trascendentale dell'esperienza di vita al fronte, a qualcuno purtroppo va male perché questa spavalderia a volte viene pagata con la vita. L'imprevedibilità del dove arriva la morte, da dove arriva la morte, la si prova in particolare nel bombardamento. Quando c'è un bombardamento, dicono i soldati, non si sa da dove arrivi, non si sa dove sia, anzi dicono è dappertutto. Allora Lorenzo Merlini ci legge la descrizione, un paio di descrizioni di bombardamento, che è uno dei bombardamenti, noi ce ne immaginiamo dagli aerei, in realtà ci sono anche lanci, insomma, di artiglieria pesante, che provoca questo. Sento il fischio ansante tremendo del proiettile. È interminabile. Sento la certezza orribile che si precipiti sul mio piccolo abitacolo e mi riduca a brani. La morte, in quel terribile istante, la vedo sicura. Sento al fine lo scoppio impetuoso e tremendo poco lungi. Respiro. Una immensità di schegge, di pietre, di terra viene scagliata nella veemenza dell'urto e dello scoppio, parecchie centinaia di metri lontano. Sento fra gli alberi il frastuono delle materie proiettate e la mia barata sembra che non possa resistere all'urto di queste, tanto che sento le tavole scricchiolare. Attendo ancora un istante che l'effetto dello scoppio cessi ed emettendo un sospiro di sollievo esco e mi allontano dal pericolo. Ma è difficile allontanarsi dal pericolo. Dopo circa 10 minuti giunge un altro proietto. Ci ripariamo dietro le rocce e attendiamo con l'animo sospeso la nostra sorte. Scoppia 200 metri più in su, vicino alla prima curva che fa la strada, che tocca la nostra batteria. Le schegge e grosse pietre ci cadono a pochi passi. Quelle sono roventi, quelle sono annerite dalla vampata della polvere. Rimaniamo per circa un'ora nella tremenda attesa che altri proietti vengano a colpirci. Dopodiché ci avviciniamo in pareti sul luogo dello scoppio degli obici per verificare i danni. Un'enorme voragine è stata aperta dal proietto. 6 persone possono starvi comodamente dentro. Un maestoso abete colto in pieno è stato lanciato con tutte le sue radici a più di 200 metri. Mi sembra che fosse questa artigliere, mi sembra che si chiami Gagliani, dovrebbe essere la sua testimonianza. C'è un passaggio in questa sua testimonianza, che è un passaggio in tante testimonianze, che mi ha colpito molto sin dall'inizio, e cioè questa certezza che la morte stesse per arrivare. È uno stato psicologico che chiaramente nessuno di noi ha mai vissuto. Io mi sono interrogato molto a lungo su che cosa significhi per una persona aspettare la morte non come una probabilità da combattere, appunto, come dicevamo prima, assumendo degli atteggiamenti che la contrastino, ma come una certezza ormai inevitabile che arriverà da un momento all'altro. Ecco, una delle domande, se vogliamo così, forse impossibili alle quali è impossibile rispondere, che mi ha spinto a fare questo lavoro è proprio racchiusa in questo momento soggettivo vissuto da queste persone. Mi sono chiesto a lungo cosa passasse nella loro testa in quei momenti. Beh, è un po' una risposta l'hai trovata, però, perché c'è una lettera in cui un ragazzo, prima della battaglia di Caporetto, sappiamo tutti com'è finita, scrive una lunga lettera ai suoi genitori, ed è un vero testamento che fa davvero rabbrividire, con una consapevolezza d'animo che probabilmente quella battaglia sarà davvero l'ultima, e lascia delle sorte di disposizione ai suoi genitori, che sono più anziani di lui. Mi raccomando, continuate, quasi fosse davvero una presa di commiato prima di una battaglia di cui non si era certi che poi avrebbe decretato la sua morte.